che c'è. Cerco il motivo per cui sei senza. Sai che non lo dirò, giuro a nessuno. Mai, mai, mai, ma mai. Io anche mi chiudo, sai, ma dai. Ormai dimmi che c'è. Sono un po' in bilico tra i perché. Chiedi di essere il primo. Oh, oh, oh, nai, nai, nai, nai, nai. Non sarei solo, mai sai che hai me. Giuro che sarò qua anche se c'è il cuore ambientato. Non mi importa, fa di fare la star. Perché c'è un tipo normale che vorrebbe parlare alla gente solo grazie alla musica. Ok, ora non posso suonare, ci posso provare ma ora non va. Chiedo se c'era a fumare, così non perdo tempo con te. Avrei potuto assieme ai bungee jumping con le pare e lo stress. Dimmi che c'è. Cerco il motivo per cui sei senza. Sai che non lo dirò, giuro a nessuno. Mai, mai, mai, ma mai. Io anche mi chiudo, sai, ma dai. Ormai dimmi che c'è. Sono un po' in bilico tra i perché. Chiedi di essere il primo. Oh, oh, oh, nai, nai, nai, nai, nai. Non sarei solo, mai sai che hai me. Un filosofo un po' tossico. Arrossirò il giorno che mi dirai no contro ogni fottuto pronostico. Non posso più far finta di star bene, un comico. Il tuo tipo ideale sarà certamente il prossimo. No, corrono a piedi i desideri. Trovano sempre dei problemi andando sopra i grattacieli di New York. Perché mi cambi gli emisferi e vedi i lampi ancora accesi dentro al cielo dei pensieri. Ma lo smog offusca l'alba, l'ansia mi bussa alla mia porta, tu stai lì come una volta. La mia bussola è rotta e la mia rotta non è giusta. Il cervello adesso è stretto in un cranio che pulsa. Ma se ti fidi, dimmi che c'è. Cerco il motivo per cui sei senza. Sai che non lo dirò, giuro a nessuno. Mai, mai, mai, ma mai. Io anche mi chiudo, sai, ma dai. Ormai dimmi che c'è. Sono un po' in bilico tra i perché. Chiedi di essere il primo. Oh, oh, oh, nai, nai, nai, nai, nai. Non sarei solo, mai sai che hai me. Sai che hai me.